C'è un altro aspetto importante che ha spaventato un pochino i consumatori e i clienti bancari, lo siamo tutti, dottor Gaggi, cioè vanno in pensione le vecchie coordinate ABI e CAB del conto corrente. Adesso per i bonifici diventa obbligatorio il codice IBAN e tutti si sono spaventati perché dicono: oh mamma mia, adesso per fare un bonifico bancario dovrò trasmettere alla banca questo codice, dove me lo scrivo, è complicatissimo. In realtà già adesso operavamo da diverso tempo con l'IBAN e non è stata teoricamente, ma anche nella pratica, una rivoluzione silenziosa. Secondo lei, insomma, per poter fare poi tutte le operazioni con la banca, è bene che questo codice ce lo scriviamo da qualche parte, perché è banalmente la sommatoria fra ABI CAB e numero del conto corrente, quindi se proprio lo andiamo ad esaminare non è niente di così complicato, dottor Gaggi? È esattamente così. Sembra, spaventa un pochino data la sua lunghezza, perché sono stati aggiunti dei codici a livello internazionale, quindi gli italiani sono contraddistinti da IT come iniziale e così via. Però, come ha detto lei, di fatto io rimango addirittura un pochino sorpreso che l'IBAN, che sembra così complesso, è stato invece ben digerito e viene molto utilizzato ormai rispetto alle vecchie coordinate, che prima si diceva CAB, ABI, eccetera, e pure quelle presentavano un livello di complessità che spesso portava il cliente a non capire bene. Il mio suggerimento, il nostro suggerimento del banco, è quello di scriversi il codice intero così com'è, tenerlo. Di solito adesso le banche danno anche dei tesserini nei quali ci si può scrivere il proprio IBAN, comunque sta su tutti gli estratti conto, sta su tutti i documenti contabili che rilascia la banca. Memorizzare quello, tra l'altro quello non è un codice segreto di per sé, soltanto l'identificativo del conto, e tenerlo sempre pronto per ogni evenienza. Peraltro ormai molti dei bonifici vengono fatti via internet tramite meccanismi di banca via web, e lì di solito si memorizzano tutti i codici dei bonifici effettuati, e quindi di per sé non è più un livello. Non è necessario compilarlo ogni volta e trascriverlo ogni volta, diciamo che mediamente viene memorizzato, insomma, dal sistema.